E ora ci addentriamo nell'isola che non vedi. Percorsi, natura, storia, vita. A cura di Maiorca Trekking. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Italiana e bentornati all'Isola che non vedi, la nostra e vostra rubrica settimanale del venerdì mattina curata da Maiorca Trekking, attraverso cui scoprire insieme storia, cultura, tradizioni e meraviglie della splendida isola che ci ospita. Io sono Sergio e vi guiderò oggi in questo breve viaggio alla scoperta di un simpatico animaletto maiorchino che da sempre desta l'attenzione di tutta la comunità scientifica. Tutto l'arcipelago delle Baleari infatti è una vera e propria miniera d'oro dal punto di vista faunistico e Maiorca in particolare è da sempre ritenuta una delle isole con la maggiore varietà di specie animali di tutto il Mediterraneo, specie che spesso sono presenti esclusivamente sul nostro territorio e che presentano caratteristiche del tutto diverse dal resto della fauna continentale. Basti pensare che solo qualche tempo fa è stata ritrovata nei mari del sud di Maiorca una nuova specie di mollusco del tutto sconosciuta alla comunità scientifica. Oggi ci concentreremo sulla lucertola delle Baleari, conosciuta dai maiorchini come Sa Sargantana, e cercheremo di capire cosa la rende così speciale. Vi lascio adesso con un po' di musica e ci sentiamo fra poco sempre su Italiana. Quanta fretta, ma dove corri? Dove vai? Se ci ascolti per un momento, capirai. Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare. Puoi parlarci dei tuoi problemi, dei tuoi guai, i migliori in questo campo siamo noi. È una ditta specializzata, fai un contratto e vedrai che non ti pentirai. Noi scopriamo talenti e non sbagliamo mai. Noi sapremo sfruttare le tue qualità. Dacci solo quattro monete e ti iscriviamo al concorso per la celebrità. Non vedi che è un vero affare, non perdere l'occasione, se no poi te ne pentirai. Non capita tutti i giorni di avere due consulenti, due impresari che si fanno in quattro per te. Avanti, non perder tempo, firma qua. È un normale contratto, è una formalità. Tu ci cedi tutti i diritti e noi faremo di te un divo da hit parade. Dove corri? Dove vai? Che fortuna che hai avuto ad incontrare noi. Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare. Di noi ti puoi fidare. Di noi ti puoi fidare. Rieccoci cari amici, ancora insieme su Italiana con l'isola che non vedi e oggi stiamo andando alla scoperta di un animale tipico di Maiorca che da sempre attira l'attenzione degli scienziati, ossia la lucertola delle Baleari, conosciuta come Sa Sargantana. Ma qual è la loro storia naturale e cosa c'è che la rende tanto speciale? Prima di tutto parliamo di piccoli rettili, lunghi dai 4 ai 7 cm, appartenenti al gruppo dei vertebrati ectotermici, cioè capaci di raggiungere la temperatura corporea necessaria per eseguire processi vitali solo tramite fonti esterne, principalmente il sole. A differenza dei mammiferi, come noi umani o come gli uccelli, che riescono a mantenere una temperatura corporea elevata grazie ai processi metabolici interni. Questo tratto fisiologico di questi rettili segna in modo indelebile tutta la loro biologia. perché richiedendo una fonte esterna di calore, la loro attività è subordinata all'esistenza di questa fonte e la sua distribuzione geografica è limitata alle aree del pianeta con temperature maggiormente favorevoli. Tuttavia, l'ectotermia è, energicamente parlando, molto più economica della nostra endotermia, tanto da consentire ai rettili di poter vivere in luoghi in cui il cibo non è così abbondante e dove i mammiferi molto probabilmente non sopravviverebbero a lungo. La sargantana, nello specifico, appartiene alla famiglia delle Laceridi, un vasto gruppo di rettili che occupa l'Africa, l'Europa e gran parte dell'Asia. Sono state descritte quasi 300 specie di Laceridi con una straordinaria diversificazione biologica, particolarmente evidente nelle isole, dove ogni popolazione di una sottospecie occupa un territorio esclusivo, totalmente isolato grazie alla presenza del mare e, cosa più importante, con caratteristiche molto ma molto differenziate. Pertanto anche all'interno della stessa specie su ogni isola l'evoluzione ha seguito percorsi peculiari, diversi e persino capricciosi, che si traducono in popolazioni di corporatura e colore molto diverse e con tratti comportamentali unici. Questa eterogeneità ha richiamato l'attenzione di numerosi naturalisti già dalla prima metà del XIX secolo, quando si organizzarono numerose spedizioni e viaggi in tutte le Baleari il cui obiettivo era la cattura e la descrizione di queste specie. Dopo la scoperta della prima popolazione della lucertola delle Baleari sulla costa meridionale di Minorca e la successiva descrizione fatta da un naturalista tedesco Gunther nel 1874 di numerose razze e sottospecie differenti in tutto l'arcipelago, tutte queste lucertole furono considerate inizialmente appartenenti a una singola specie. Ben presto però fu riconosciuta l'esistenza di due specie molto diverse, la lucertola Pitiusas, presente solo nelle isole di Ibiza e Formentera, e la lucertola delle Baleari, la nostra sargantana, esistente oggi solo nell'arcipelago di Cabrera e in 10 isolotti costieri di Maiorca, fra cui l'isola della Dragonera. La domanda successiva a questo punto è molto semplice. Com'è possibile che la sargantana viva solo a Cabrera e sulla Dragonera e non sul suolo della gigantesca isola di Maiorca? Come hanno fatto questi animali ad adattarsi meglio in territori così aspri piuttosto che proliferare nell'abbondanza di Maiorca? Fra poco cercheremo di rispondere a queste domande che da sempre attanagliano gli scienziati di mezzo mondo. Give you my love. Siete ancora in compagnia di Sergio di Mallorca Trekking? Ci siamo lasciati poco fa con alcune domande sulla sargantana, un piccolo rettile tipico degli isolotti minori che circondano Mallorca, e adesso proveremo a dare risposta a questi enigmi. Prima di tutto occorre ricordare che le lucertole delle Baleari si sono evolute per circa 5 milioni di anni, fin dalle origini dell'arcipelago, senza predatori specializzati nella cattura di piccoli rettili. L'evoluzione in un mondo privo di pericoli ha avuto però il suo prezzo. Infatti la sargantana ha perso parte del suo arsenale di contromisure per gli attacchi dei predatori. Il principale meccanismo antipredatore delle lucertole, infatti, prevede la perdita volontaria della coda prima del morso di un predatore. Meccanismo che la sargantana ha praticamente perso, non essendo più capace di perdere la coda. Ma la vera miglia non finisce qui. Anche meccanismi di fuga sono stati abbandonati, tanto che ancora oggi la sargantana si avvicina molto più facilmente ad altri animali, umani compresi, rispetto a tutte le altre specie di rettili. Noi siamo stati personalmente sulla Dragonera e vi posso assicurare che la sargantana è un animale molto socievole che si avvicina immediatamente a noi, come se non fossimo assolutamente un pericolo. L'insularità è stata anche determinante per i cicli di riproduzione di questi animali. Sul continente, con l'abbondanza di cibo, lucertole di dimensioni corporee simili producono da 5 a 10 uova per deposizione. In isolotti così piccoli come Cabrera o la Dragonera, il cibo è sempre scarso e le femmine quindi si sono adattate nei millenni producendo solo una o due uova massimo per deposizione. Ma i paradossi non finiscono qui. L'assenza di predatori favorisce l'emergere di strategie diverse per ottenere il cibo. Le lucertole continentali di solito sono insettivore, con un pasto giornaliero breve e rapido per ridurre al minimo i tempi di esposizione alla vista dei rapaci. In un ecosistema senza predatori come la Dragonera e Cabrera, la sargantana può accedere ad altre fonti alimentari, dedicandovi molto più tempo. È il caso delle piante, che producono frutti e nettare, facilmente assimilabili dai rettili, ma che richiedono molto più tempo per essere consumati come pasto. La sargantana ha elaborato quindi tecniche uniche di alimentazione, che vanno dal semplice morso delle foglie fino allo sradicamento dei frutti per mezzo di torsioni, simili a quelle usate dai coccodrilli. Ma non solo, la sargantana, rettile unico in questo tratto, si ciba anche di piccoli crostacei e addirittura delle meduse che raggiungono le coste durante i temporali. L'onnivorismo quindi è stata, ed è ancora oggi, una delle chiavi per spiegare l'evoluzione e la sopravvivenza in forma del tutto atipica di questo animale. Ma l'onnivorismo ha avuto anche delle conseguenze molto più importanti. Infatti il consumo di nettare comporta il trasferimento costante delle sargantanas fra le varie piante. Le aree della pancia e della gola, entrando quindi in contatto con gli organi floreali che producono polline, agiscono come veri e propri impollinatori di molte specie vegetali. Ma non è tutto. Il consumo di frutti della sargantana avvantaggia soprattutto le piante, poiché i semi defecati dalle lucertole a grandi distanze dalla pianta di origine vengono sparsi in un modo estremamente efficace per garantire la diffusione e la sopravvivenza di alcune specie di piante solo sugli isolotti dove è presente la sargantana. Insomma, stiamo parlando di un animale che rappresenta l'ago della bilancia di interi microecosistemi che, seppur geograficamente piccoli, sono senza dubbio un tesoro da custodire in tutto il territorio maiorchino. Inaspettato, non è vero? Ognuno ha un peso da portare con sé. Non dirmi che tu non lo sai, ma più ci pensi e più succede che poi finisce che non ce la fai. Sospesi in volo su una grande giostra al suono della musica, giriamo io e te, giriamo io e te, la stessa vita così amara qualche istante fa. Se solo tu vuoi, poi diventa più dolce che mai. Non lo sai che quando sorridi è un attimo, e così i pensieri più tristi svaniscono. A che serve farsi la vita difficile, se alla fine è già complicata così com'è. Ognuno ha un po' di amore dentro di sé, non dirmi che tu non ce l'hai. Ma più ne chiedi e più non serve, perché dipende da quanto ne dai. E puoi lasciarti andare fino in fondo alla tua solitudine, se è quello che vuoi, se è quello che vuoi. Ma finché al mondo c'è qualcuno che ci tiene a te, ricorda se puoi, quello è il bene più grande che hai. sai che quando sorridi è un attimo, e così i pensieri più tristi svaniscono. A che serve farsi la vita difficile, se alla fine è già complicata così com'è. Bentornati su Italiana, anche oggi purtroppo siamo giunti alla fine del nostro appuntamento con L'Isola che non vedi. Vi ricordo come sempre che se volete scoprire dal vivo insieme a noi di Mallorca Trekking tutte queste meraviglie, potete entrare in contatto con noi visitando la nostra pagina Facebook Mallorca Trekking L'Isola che non vedi, o seguirci su Instagram attraverso il nostro account Mallorca Trekking Project, o ancora visitare il nostro archivio fotografico attraverso il nostro account Flickr. Domani 22 febbraio Mallorca Trekking è in programma un'escursione di gruppo a cui purtroppo non potrete più iscrivervi perché abbiamo già raggiunto il numero massimo di adesioni, però se volete potrete seguirci lo stesso live attraverso i nostri social tramite il resoconto passo dopo passo che faremo durante tutta la giornata di domani. Non mi resta che salutare tutti gli ascoltatori di Italiana, dandovi appuntamento al prossimo venerdì per scoprire insieme a me, Sergio, i piccoli segreti storici nascosti nelle colline che si trovano alle spalle della città di Palma. Andremo alla scoperta della Serra de Namburgesa. La raccomandazione è sempre la stessa. Vivi la tua isola, scopri le sue meraviglie. Ciao! L'isola che non vedi. Percorsi, natura, storia, vita. A cura di Mallorca Trekking.